La politica alla prova. Buon pomeriggio da Elisabetta Fiorito e dalla postazione di Radio 24 qui a Montecitorio. Subito il numero per i vostri SMS: 349-238-6666. Buon pomeriggio da Vincenzo Miglietta. La notizia della giornata: il Consiglio dei Ministri ha trovato l'accordo per abrogare il finanziamento pubblico ai partiti, più spazio alle erogazioni dei privati purché tracciabili. Tra pochi giorni arriverà il testo. Soddisfatto il Popolo della Libertà. Altro impegno mantenuto, scrive il vice premier Alfano. Soddisfatto anche il capogruppo alla Camera del PDL Renato Brunetta. Ascoltiamo Brunetta. Si tratta di vedere adesso come sarà attuato. Da quello che so, si sono discusse delle linee guida. Era uno dei nostri 8 disegni di legge, vale a dire l'azzeramento del finanziamento pubblico e il passaggio a un metodo americano, vale a dire quello di consentire ai privati di finanziare l'azione politica attraverso incentivi di deduzioni rispetto ai contributi dati, come avviene in tutti i paesi del mondo. Questa era la nostra posizione, il nostro disegno di legge, e aspettiamo adesso di vedere cosa deciderà il Consiglio dei Ministri. E su questa base noi siamo d'accordo. Abbiamo un nostro testo da confrontare con quello del governo e il nostro capo delegazione, il nostro segretario, si chiama Alfano, quindi penso non ci siano problemi. E tutto ciò nel giorno in cui Luigi Lusi, ex tesoriere della Margherita, torna in libertà dopo aver fatto i domiciliari in convento. Ricordiamo che Lusi è sotto processo a Roma con l'accusa di essersi appropriato illecitamente di 25 milioni di euro dalle casse del partito, ma ci sono già le prime reazioni del Movimento 5 Stelle al taglio del finanziamento pubblico ai partiti. Beppe Grillo scrive su Twitter che è l'ennesimo ma presa in giro, anche se non usa questa espressione, ma un'espressione un pochino più colorita, preelettorale del PD-L, e Vito Crimi dice su finanziamento da Letta sparata elettorale. Ma insomma, se comunque tagliano il finanziamento pubblico ai partiti, penso che qualcuno sarà contento, anzi la maggior parte degli italiani, noi siamo contenti. Allora Vincenzo, qual è un altro tema all'ordine del giorno? La sfida a Roma, assolutamente. Altro tema quindi del giorno sono le elezioni comunali, la sfida più importante nella capitale, dove il sindaco uscente Gianni Alemanno, PDL, sfiderà Ignazio Marino, Partito Democratico, ed ancora Alfio Marchini, indipendente, Marcello De Vito, Movimento 5 Stelle. E c'è una sorpresa: Marchini dice che in caso di sua vittoria De Vito potrebbe anche fare il suo vice. Quindi Elisabetta, un ticket Marchini-De Vito può essere? Ma insomma è una battuta che non piace molto al Movimento 5 Stelle. Intanto ci sono però i primi SMS. Questa è una conquista solo di Grillo sul taglio del finanziamento pubblico ai partiti, e vai col programma del PDL, Benedetto da Renzi, scrive Maurizio. Insomma, è un tema che divide. Comunque, tornando a Marchini, sentiamo che cosa ci ha detto Matteo Dall'Osso del Movimento 5 Stelle. Se invece vince il candidato del Movimento 5 Stelle, lo mettiamo a fare il vice l'altro? Alfio. Però si sta creando quindi un movimento di indipendenti dai partiti principali. Beh, il nostro è assolutamente indipendente, non è finanziato da nessuno. Questa persona che mi hai citato non lo conosco neanche, non l'ho mai visto, non so chi sia, non so per quale motivo si è candidato, perché, cos'è che l'ha spinto, boh. Beh, l'ha spinto a scardinare un po' il gioco PD-PDL. Beh, allora bastava che si unisse a noi. Noi questo faremo e facciamo, come hai visto qui in Parlamento. Quindi non c'era bisogno di creare uno nuovo. Questa frammentazione a chi è utile, se non al PD e al PDL. Ma esiste invece questa blacklist dei giornalisti? Sì, sì, esiste ed è effettivamente... sono nomi, poi tra parentesi devi sapere che ho sbirciato e anche tu sei fra questi. Allora mi devo preoccupare. Sì, sì, assolutamente, preoccupati. Ma scherzi a parte, non esiste nessuna blacklist? No, non esiste, ovviamente non esiste, ma chi è che ha detto questa cosa della blacklist dei giornalisti? Ma io non lo so, ma veramente, ma dai, fammi scappare che ce le inventiamo tutte. Sì, assolutamente. Ma no, ma sai che cosa? È che è un'invenzione di secondo grado, cioè è praticamente un esponenziale, cioè voi inventate l'inventato. Restiamo comunque nel dubbio che tu sia nella blacklist del Movimento 5 Stelle. Ma torniamo a questo ipotetico ticket Marchini e De Vito in Campidoglio. Sentiamo cosa ne pensa il Partito Democratico nella persona di Ermete Realacci. Ma De Vito cosa ha detto? Perché questo è importante. Anch'io vorrei andare a cena con Sharon Stone, ma temo che non accetti il mio invito. Quindi secondo lei è semplicemente una mossa elettorale? Sì, credo che alla fine di una campagna elettorale ognuno spara tutte le carte che ha per provare a attirare un po' più di voti, un po' più di attenzione. Un'iniziativa di questo tipo credo che danneggi molto il Movimento 5 Stelle, perché fa apparire come la ruota di scorta di un'altra proposta politica. Senta, ma Marino, è vero che molti del PD non lo votano a Roma? Insomma, è una candidatura che non è molto forte. No, io francamente non ho incrociato nessuno del PD che mi abbia detto questo. È chiaro che in ogni caso la campagna elettorale a Roma è una campagna molto difficile, in cui bisogna parlare a tanti mondi. Ma chi andrà al ballottaggio? Ma io penso, non è che ho la sfera di cristallo, però penso che sia ragionevole prevedere un ballottaggio fra Marino e Alemanno con Marino in testa. Quindi voi siete sicuri che Alemanno non rivincerà? Stiamo parlando del ballottaggio o della sconfitta, della vittoria finale? No, il ballottaggio penso che sia questa la cosa più ragionevole da pensare. Dopodiché, come sempre, nelle elezioni la sfida è all'ultimo voto. Però è vero pure che dicono che i voti di Alfio Marchini, qualora non andasse al ballottaggio, andranno poi ad Alemanno, confluiranno sul candidato di centrodestra. Cioè, quindi Alfio Marchini avrebbe come vice 5 Stelle e poi voterebbe Alemanno? E che è? Mandraghe, direbbe. Ah, invece c'è lo stop sul finanziamento pubblico ai partiti, sul tavolo del Consiglio dei Ministri. Renzi, lei è un renziano, ha detto, ho sentito Letta, andiamo avanti. Ma io sono sempre stato favorevole, penso che bisogna trovare altre forme di finanziamento trasparenti e accessibili per i cittadini per finanziare l'attività politica. Poi ci sono dei servizi che è giusto garantire, ma è chiaro che non solo per la sensibilità dell'opinione pubblica, ma anche per l'abuso che è stato fatto del finanziamento pubblico ai partiti, va cambiata rotta. E questo era Ermete Realacci. Un ascoltatore ci scrive: finanziamento abolito o ridotto, ancora devono scrivere il disegno di legge. Vorrei dire a tutti i nostri radioascoltatori che io e Vincenzo Miglietta siamo nella blacklist di tutti i partiti, perché noi per par condicio facciamo domande scomode a tutti i partiti. Un saluto da Elisabetta Fiorito e da Vincenzo Miglietta.